20강 어휘 arrivare, bisognare, convenire, dire, diventare, entrare, fare, grandinare, guadagnare, guidare, imparare, incontrare, lampeggiare, nevicare, occorrere, partire, piovere, preparare, salutare, scrivere, tirare, trovare, tuonare, facile, felice, libero, ricco, straniero, ubriaco, ultimo, biglietto, caldo, colosseo, cucchiaio, domanda, freddo, grammatica, lavoro, minestra, patente, persona, strada, vacanza, vento, andare via, assolutamente, durante, oppure, prima di tutto, secondo te. 문형. Si può scrivere senza una penna? No, non si può. Si deve studiare molto per diventare ricco? Sì, si deve studiare molto. Cosa si mangia a colazione? Si mangia un cornetto e un cappuccino. Si può mangiare la minestra senza cucchiaio? No, si deve avere un cucchiaio. 대화. Che cosa si dice prima di andare via? Si dice arrivederci a tutti. Come si dice quando due persone si incontrano per la strada? Si dice buongiorno oppure ciao. Si può entrare al cinema senza biglietto? No, non si può. Allora, che cosa si deve avere per farlo? Si deve avere il biglietto. Che cosa si deve fare se si vuole parlare bene l'italiano? Si deve studiare molto la grammatica prima di tutto. Ultima domanda. Si può guidare la macchina quando si è ubriachi? Non si deve guidare assolutamente.